Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. 1979, la rivista underground Little Caesar pubblica un numero con la foto in bianco e nero di un uomo nudo. È provocazione, è esibizionismo? No, è solo lui, il protagonista della nostra puntata. Un provocatore, un matto vero, ma soprattutto uno dei più grandi rocker di sempre. All'epoca dell'uscita della rivista, l'avventura con il suo gruppo che si chiama Stooges si è conclusa da qualche anno, ma non la sua carriera, perché lui è appena tornato da Berlino, dove grazie a Bowie, a David Bowie, ha dato nuovo impulso alla sua produzione. Stiamo per raccontarvi la storia di Iggy Pop. La collaborazione tra Jimmy e me ha significato qualcosa, perché ero entusiasta di tutto quello per il quale lui lotta. E non vorrei mai essere considerato un manipolatore di quello che fa, solo perché sta diventando popolare ora. In questa intervista David Bowie, con grande correttezza, con grande fair play, si toglie dei meriti che potrebbe avere, mette i puntini sulle i e racconta quanto è sia grande il suo rispetto nei confronti del nostro protagonista Iggy Pop, al secolo James Newell Osterberg, che non ha certo bisogno di Bowie per essere considerato geniale. Però Bowie è l'amico che in un attimo davvero difficile gli sta vicino e contribuisce a tirare fuori dal suo cuore un nuovo suono e una nuova meravigliosa linea editoriale. Ma torniamo a lui. James nasce nel Nord America, nel Michigan, la regione dei Grandi Laghi. Il padre è un insegnante, un allenatore di baseball, adottato da una famiglia svedese da cui prende il nome. La famiglia di James abita in un campo di roulotte e, sebbene la loro sia una vita bizzarra, basti pensare che abitano in una roulotte non perché sono poveri, ma per una scelta libera del padre che non vuole avere troppe radici da qualche parte. Bene, non vuol dire che James sia un ragazzo abbandonato a se stesso. I suoi genitori si prendono una grande cura di questo loro figlio unico, un po' timido e molto dotato. Una volta arrivato alle medie ad Ann Arbor, andavo a scuola con il figlio del presidente della Ford Motor e con tanti altri bambini ricchi e di buona famiglia. Ma avevo una ricchezza che batteva tutti: l'enorme impegno dei miei genitori su di me. Mi hanno accudito molto. Mi hanno aiutato a esplorare tutto ciò che mi interessava, e ciò culminò con l'abbandono dalla loro camera da letto nella roulotte, perché era l'unica camera abbastanza grande per contenere la mia batteria. Così mi diedero la loro camera da letto. E il nostro James, futuro Iggy, frequenta la scuola con passione. Un anno viene addirittura votato come il ragazzo che ha più possibilità di riuscire nella vita, ma non prevedevano come. Però comunque ci hanno preso. La foto del liceo lo ritrae in giacca a righine celesti, con i suoi grandi occhi azzurri spalancati e un sorriso gentile. È il classico ragazzo che abbiamo visto in tanti film americani degli anni 60. Avevo circa 14 anni ed ero veramente interessato a quasi tutto. Forse per questo motivo gli altri bambini pensarono: però ha una grande bocca, arriverà lontano. Qualcosa del genere. Più tardi, quando ero al liceo, ho abbandonato un po' tutto, tranne la musica. Al liceo la timidezza si dilegua, la passione per lo studio viene sostituita dalla passione per la batteria. A 15 anni James fonda la sua prima band, che si chiama, guarda un po', The Iguanas, e il nome lo prende dal titolo di un film, La notte degli Iguana, di Johnny Houston, con Richard Burton, Ava Gardner, perché gli piace il manifesto con i due protagonisti che si abbracciano nel mare, e l'iguana rimarrà. Lui suona la batteria, non canta perché non viene considerato all'altezza. Gli Iguana durano poco, la band seguente di Iggy si chiama Prime Movers, dove suona ogni tanto un suo compagno di scuola, Ron Asheton, che è il primo nome che mi segnerei, perché di Ron Asheton si parlerà ancora. E del primo gruppo rimane solo il nome di James. Iggy, contrazione di Iguana, ma anche i Prime Movers sono destinati a estinguersi per lasciar posto a una nuova formazione che viene chiamata The Psychedelic Stooges. Per il nome Iggy attinge di nuovo alla sua cultura cinematografica citando il trio comico The Three Stooges, e li conosciamo anche noi, nel loro film in italiano sono stati tradotti come i Tre Marmittoni. All'inizio i Tre Marmittoni del rock sono Iggy, Ron Ashton e suo fratello Scott, ai quali si aggiunge poco dopo un nuovo batterista, Dave Alexander. Sentì Ron suonare alcuni accordi nel gruppo The Chosen Few e mi accorsi subito che aveva talento. Era l'unico ragazzo in questa cover band che sembrava... Non ho mai incontrato un musicista convincente che non avesse l'aria malata e sporca, e Ron rientrava in entrambe le categorie. E poteva uscire appena fuori dalla doccia e sembrava ancora un po' sporco. Sembrava che stesse sempre un po' male. E così ho pensato, wow, un tipo come questo è uno che fa sul serio. Negli Psychedelic Stooges, Iggy porta inizialmente la sua passione per il blues. Dopo lo scioglimento dei Prime, Iggy trascorre un po' di tempo a Chicago, una delle patrie americane del blues. Quando torna ad Ann Arbor, fonda gli Psychedelic. L'idea iniziale è quella di continuare a fare quel genere di musica, poi si cambia idea, la band passa per un periodo avanguardista in cui suonano anche oggetti o strumenti fabbricati in casa come aspirapolveri, frullatori, insomma è il momento di sperimentare, ma le cose stanno per cambiare per Iggy, sta per avere una rivelazione. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1967, Iggy Pop, il protagonista della puntata di oggi, ha 20 anni e un sogno, fare musica. La sua passione è il blues, ma un giorno gli capita di andare a un concerto di un nuovo gruppo, i Doors, che è nato da poco tempo, da 2 anni. Il concerto ha avuto una grande influenza su di me. Avevano appena raggiunto il successo con Light Me Fire ed ecco arrivare questo ragazzo, fuori di testa perché sotto acido, vestito di pelle, con i capelli ricci tutti oliati. Il palco era minuscolo ed era davvero basso. L'ho trovato molto interessante. Ho amato la performance. Una parte di me pensava, wow, questo è grande. Fa davvero incazzare la gente e sta barcollando in giro a far arrabbiare questi ragazzi. La gente stava correndo sul palco e Morrison gli diceva «Va a farti fottere!» E pensavo «Ma se questi possono avere fuori un disco di successo proprio ora, allora non ho un cazzo di scuse per non salire anch'io sul palco con la mia band!» È stato uno di quei casi in cui ci si dice «Ehi, posso farlo!» E già, Jim Morrison sul palco è un personaggio che non può non sconvolgere Iggy. È a petto nudo, coi pantaloni di pelle, si rivolge aggressivamente verso il pubblico. È un imprinting che Iggy non dimenticherà mai. Per il nostro cantante in cerca di uno stile diverso, Jim Morrison è la rivelazione. Da quel momento Iggy decide di salire sul palco sempre a torso nudo e con indosso solo jeans o pantaloni glitter, e lui sul palco una maglietta non se la metterà mai. Li indosso perché mi fanno sembrare bello. Guardo me stesso nello specchio e penso, wow, sono davvero fantastico. E penso di essere il più grande, comunque. Così il blues viene definitivamente abbandonato. Iggy si guarda attorno, vuole cercare un detonatore, un'ispirazione musicale. La risposta la trova a Detroit, la grande città industriale, a pochi chilometri da Ann Arbor, dove ci sono le fabbriche di automobili. È proprio da queste fabbriche che Iggy trae l'idea dei suoni delle sue canzoni. Suoni duri, violenti, aggressivi. Sembra un martello che batte su un incudine, una sega che taglia qualcosa. E il risultato iniziale sono jam session molto sperimentali, ma c'è già tutta la follia dissacrante di Iggy. Non è un caso che il primo concerto degli Psychedelic Stooges avvenga il giorno di Halloween del 1967. Nella notte delle streghe escono allo scoperto i diavoli. Con i primi concerti nell'area di Detroit, a pochi chilometri da Ann Arbor, il gruppo inizia a farsi conoscere per le musiche, ma soprattutto per le performance pazzesche di Iggy, perché lui sul palco urla, si libera, si ferisce con i frammenti delle bacchette della batteria, con i vetri delle bottiglie che la gente gli sta lanciando. È una rivoluzione stilistica. A volte, quando si rimette la maglietta alla fine del concerto, questa si colora tutta di rosso sangue. È esibizionista, iconoclasta, coraggioso, ingovernabile. È lui l'inventore dello stage diving, l'artista che si lancia dal palco sulla folla con la speranza di essere sorretto e fatto avanzare grazie all'aiuto del pubblico. A questo proposito esiste un aneddoto abbastanza divertente successo durante un suo concerto del 70. I was walking over the crowd. Camminavo letteralmente sopra la folla. Camminavo proprio lì ed era una cosa bellissima. Ti sentivi un po' Gesù. Quando ad un certo punto una mano uscì da lì spalmandomi del burro di noccioline addosso. Shot up from the crowd with a jar of peanut butter. Insomma, l'effetto del burro di arachidi dà l'impressione che Iggy si sia sbrindellato la pelle del petto. Quando torna sul palco, i suoi compagni non sono impressionati, perché loro sono abituati a queste manifestazioni di autolesionismo, ma i tagli e le ferite autoinflitte non sono niente in confronto alle continue allusioni sessuali del cantante, perché spesso e volentieri Iggy estrae ciò che di meglio ha, cioè il pene, dai pantaloni, per non parlare della volta in cui indossa calzoni così stretti che durante la performance gli si strappano sul sedere lasciandolo nudo agli occhi di tutti. Insomma, è uno che non ha freni inibitori. La performance gli vale un arresto per oltraggio al pudore, una notte in guardina. Sono provocazioni. La verità è che dietro a molte di queste follie c'è una spiegazione molto cruda. Iggy e i suoi amici stanno percorrendo la pericolosa strada delle droghe, ovviamente di quelle pesanti. Il falco e il gabbiano. Iggy Pop is considered to be the originator of what is called punk rock today. È considerato il padre del punk rock. Questa è una frase importante che pronuncia Dinah Shore, che ospitava un famoso talk show nell'America di quel tempo. E quella volta nel salotto di Dinah c'erano David Bowie e Iggy Pop, il protagonista della nostra puntata al secolo, James Osterberg, il grande iguana, perché Iggy è il diminutivo di iguana. Il punk rock che spazza via tutto, che giudica obsoleto tutto quello che è arrivato prima, rispetta solo tre persone: David Bowie, Lou Reed e lui, Iggy Pop. Lui è esibizionista, è autolesionista, eccentrico e dissoluto, però incarna il punk rock prima ancora che arrivassero Johnny Rotten, i Clash, i Sex Pistols. Insomma, prima che arrivasse quell'ondata, Iggy Pop aveva già fatto quelle cose. Dopo qualche concerto col suo nuovo gruppo, gli Psychedelic Stooges, viene avvicinato da un'etichetta discografica, l'Elektra Record, quella che produce i Doors, e quindi che se ne intende di gente del genere, firma un contratto per produrre un disco, e per l'occasione la casa discografica chiede alla band di lasciar perdere il nome Psychedelic, perché è troppo legato a una cultura hippie che è destinata a sparire, di lasciare solo The Stooges. È una grande intuizione. E nel 1979 esce il primo disco di Iggy insieme alla band, si intitola semplicemente The Stooges. L'album ha la fortuna di avere come produttore John Cale, l'immenso John Cale dei Velvet Underground, e forse è uno dei pochi, forse l'unico, che può riuscire a governare una massa di suoni piuttosto informe, acida, a trasformarla in 8 tracce di senso compiuto. E tra queste tracce ci sono due brani memorabili: I Wanna Be Your Dog e No Fun. Però l'album ha la sfortuna di uscire nella settimana di Woodstock, insomma, passa in sordina. Ce lo racconta Paul Trinca, che ha scritto una biografia su Iggy intitolata Open Up and Bleed. The first album, The Stooges' debut, was really a primer for punk music. Il primo album, The Stooges, fu veramente l'inizio della punk music. Era ascoltato in tutta l'Europa. Venivano fatte cover dei suoi brani. I Wanna Be Your Dog fu interpretata da dozzine di altri gruppi. Ma nel 1969 era un tipo di album che nessuno voleva sentire. Era il periodo di Woodstock. La gente voleva sentire parlare di pace e amore, e non di cose diverse. They didn't want to hear about On Board. È già un album del genere che esce nella settimana in cui si parla di pace, amore e dove al massimo ci si fa qualche canna, è in controtendenza, almeno per il momento. Il disco vende poche copie, però gli Stooges proseguono per la loro strada. Nel 70 esce un secondo album, Fun House, dal nome della casa nella quale vivono come in una comune. Iggy continua con le sue leggendarie performance autolesioniste. In un concerto cade su un tavolino di vetro che si fracassa in mille pezzi, che gli ferisce il torace. Riesce a concludere il concerto, ma perde così tanto sangue che per qualche giorno non sarà più in grado di esibirsi. La verità è che in quel periodo tutti i componenti della band, forse all'infuori di Ron Asheton, sono dei tossici veri e propri. L'eroina viene introdotta nel gruppo dal manager del momento, che si chiama John Adams. I ragazzi non si fanno pregare. Iggy è uno che non è quasi più in grado di reggere un concerto fino alla fine. Anche per questa ragione Elektra decide di rescindere il contratto con il gruppo, li ritiene totalmente inaffidabili. Iggy sono in realtà due persone: Iggy Pop, la star, e Jimmy James Osterberg, il suo creatore. Jimmy era un ragazzo intelligente, era andato all'università, e Iggy fu una creatura pensata come perfetto veicolo per affrontare le ostilità del pubblico. Ma sfortunatamente Iggy diventò una specie di mostro che andò fuori controllo, soprattutto per l'assunzione di droghe. Prendeva acidi quasi tutti i giorni, cocaina e alla fine anche eroina. Iggy uscì totalmente fuori controllo e per la metà del 1971 lui e gli Stooges finirono a pezzi. Terminarono il rapporto con Elektra, erano sotterrati dai debiti. Nessuno voleva più sapere niente di loro. E di fatto Iggy dormiva ogni giorno sul divano di qualcuno di diverso. E insomma, l'inevitabile risultato di tutti questi fattori è lo scioglimento degli Stooges nel 1971. Sembra la fine totale. È anche una brutta fine, però in questo periodo un grande fan del gruppo incontra Iggy in un nightclub a New York e questo fan si chiama David Bowie. E David Bowie è attento alle novità musicali, ha seguito l'evoluzione degli Stooges, capisce che non può finire così questa grande avventura. Insomma, Bowie prende in mano la situazione e propone a Iggy di produrre il suo prossimo disco. Lui accetta la proposta, non può fare altrimenti, si trasferisce a Londra e insieme al nuovo chitarrista degli Stooges, James Williamson, fanno dei provini e cercano di trovare dei nuovi musicisti a Londra e poi decidono di farsi raggiungere da al resto del vecchio gruppo. Insomma, la Reunion produce un grande album che si chiama Raw Power ed esce nell'anno più grande, secondo me, della produzione discografica di tutti i tempi, il 1973. Ma nonostante il buon lavoro, le cattive abitudini non si perdono e così il gruppo, tra una rissa e un'altra, tra un abuso di droga e un altro, si scioglie di nuovo. Siamo nel 74. Iggy è di nuovo solo. In questo momento la sua principale attività è quella di farsi d'eroina, al limite andare a letto con delle ragazze minorenni, vive quasi per strada, alla fine decide di entrare in un istituto psichiatrico e tra i pochi visitatori di questo istituto, tra i pochi che non lo abbandonano, c'è ancora lui, David Bowie. Anche lui ha dei problemi, ha un problema non indifferente con la cocaina, ha voglia di tornare in Europa, individua in Berlino la città della sua resurrezione. Anche se è una resurrezione particolare, insomma, prigioniera di fantasmi, ma allo stesso tempo innovativa. E in quel periodo lui è affascinato dall'estetica nazista, quindi in qualche modo vede in Berlino un luogo dal quale ripartire. Bowie, ma soprattutto Iggy, che non ha più nulla da perdere, non può far altro che seguirlo. E io ritengo che la amicizia tra Iggy Pop e David Bowie sia una delle poche amicizie vere all'interno di tutto lo show business. I due vanno a abitare in una vecchia casa in uno dei quartieri più popolari di Berlino Ovest. Siamo nel 1976, in piena guerra fredda, la città separata dal muro, c'è un'atmosfera strana, pesante, perfetta per rendere proficui i fantasmi di Bowie e anche quelli di Iggy Pop. E poi c'è un grande fermento culturale, ci sono gruppi tedeschi che stanno facendo cose molto interessanti, i Kraftwerk tra tutti, e poi noi. E in questa atmosfera lugubre ma produttiva nascono i due album solo di Iggy Pop, due capolavori. Si chiamano The Idiot e Last for Life. Chiunque abbia un po' di buon gusto se li deve imparare a memoria. Due grandi album, il primo più elettronico, il secondo più suonato, e ci sono dei pezzi incredibili, soprattutto nel secondo, come Last for Life, che poi viene utilizzato per la colonna sonora di Trainspotting, e poi The Pass. È una canzone talmente utilizzata che credo abbia segnato, forse anche fatto ricco, me lo auguro. Iggy Pop l'hanno cantata tutti, e quando dico tutti dico proprio tutti. Sono due album meravigliosamente interessanti e meravigliosamente diversi, perché in The Idiot, il primo dei due, si sente di più l'influenza di Bowie, che in qualche modo, forse senza cattiveria, usa The Idiot come cavia per i suoi esperimenti di rock elettronico. Poi invece Last for Life riesce di nuovo a catturare le caratteristiche del grande rock che piace a Iggy, ma con una classe che francamente Iggy non aveva mai espresso negli album con gli Stooges. Dopo un breve tour insieme, il duo Bowie-Iggy Pop ovviamente deve sciogliersi, perché bisogna andare per la propria strada, e Iggy ricade nelle stesse cattive abitudini di sempre: droga, alcol, eccessi, e ritorna a essere, e cito le sue parole, un miserabile vanaglorioso tossico. Così Iggy torna in America nel 79, ritrova il suo vecchio compagno degli Stooges, James Williamson, e pubblica un album che riceve ottime critiche ma che non vende molto bene. L'album è molto interessante, ve lo segnalo, si chiama New Values. Dopo qualche altro album, dopo molti concerti, uno in particolare è quello nel quale nel Palalido di Milano, di fronte alla protesta di il gruppo Musica Gratis, Musica ai Compagni, eccetera eccetera, io ero presente, questi buttano dei volantini e Iggy Pop si tira giù i pantaloni e si pulisce a mo' di carta igienica con quei volantini, e tutto il pubblico esplode in un boato liberatorio tipo Corazzata Potemkin. Quelli da sopra gli tirano i sassi e Iggy canta 3-4 pezzi con una sedia sulla testa. Io c'ero ed è stato uno dei momenti in cui è nato il rock a Milano. Poi Iggy sparisce dalla circolazione e cerca di rimettere in carreggiata la sua vita, rimane lontano dalle scene fino all'86, quando firma un nuovo contratto, produce un nuovo album, si chiama Bla Bla Bla, conosce di nuovo il grande successo quando esce il film Trainspotting, e qui torna a farla da padrone, uno dei suoi pezzi manifesto che è Last for Life. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. E beh, Trainspotting è un altro di quei film che non potete non aver visto. Trascorrono gli anni 90, arriviamo al 2003, e Iggy decide di rimettere insieme gli Stooges. Nascono due dischi, The Weirdness nel 2003, Ready to Die, però lui fa anche degli altri album interessanti, perché attorno a lui si stringe un po' l'intelligenza del rock inglese americano, perché Iggy Pop viene sempre considerato un padre, un precursore, un'icona anche dagli altri musicisti. L'ultimo album è del 2016, si intitola Post Pop Depression, è un album complesso, maturo, e lui continua a mostrarsi a torso nudo anche se ha quasi 70 anni, ma lui può farlo perché nonostante tutto Iggy Pop è un uomo dotato di raw power, di un potere, di un'energia grezza che lo sosterrà fino alla fine dei suoi giorni. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno, magari anche un segno su se stessi, che si sono fatte del male e che ci hanno fatto del bene. Ecco, Iggy Pop è uno così, si è ferito, ci ha ferito, ma ci ha dato